Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Le solite rituali informazioni di servizio. Partiamo dal sito che è radio24.it. Vi invito a visitarlo perché potrete scaricare tutte le puntate di qualunque trasmissione, abbonarvi via podcast e anche interloquire con i giornalisti. Voi sapete che il mio blog si chiama Guardie o Ladri, lo trovate appunto attraverso Radio 24, un qualunque motore di ricerca o sulla prima pagina del Sole 24 Ore online. L'ultima informazione di servizio è relativa alla mail unabusoalgiorno@radio24.it, mail che è stata raggiunta da un nostro radioascoltatore veronese, quindi ci troviamo nel Veneto, un radioascoltatore cieco o non vedente, chiamiamolo come vogliamo. Purtroppo, ahimè, la sostanza non cambia. Molto giovane, 24 anni, questo mi fa piacere, che ascolti alla sua età Radio 24 e trasmissioni come queste. È nei giovani il futuro di questo benedetto paese, quindi benvenga l'ascolto della radio, delle puntate, delle trasmissioni impegnate. E che pone un bel problema, cioè quello della difficoltà che a volte hanno i ciechi nell'interloquire, nel raffrontarsi e confrontarsi con le catene di grande distribuzione, in questo caso con Esselunga, che tra l'altro, per carità di Dio, è una di quelle che ha fatto moltissimi passi in avanti nei confronti delle persone diversamente abili, come ad esempio la consegna gratuita a domicilio. Però questa puntata serve per mettere in evidenza un problema, ma anche per parlare, perché la ricerca di soluzioni e il dialogo è il sale della democrazia, e quindi siamo qui per parlare innanzitutto con Luca Spaziani, che è il nostro radioascoltatore di Verona. Buongiorno Spaziani. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E con Federica Pezzi, che è dell'ufficio stampa di Esselunga. Buongiorno Pezzi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io direi di partire dalla sua storia, Spaziani, cioè lei subito riconosce ad Esselunga il fatto di essere a disposizione della consegna gratuita per i disabili. Però, ecco, sul però continui lei la storia. Allora, intanto sì, premetto che l'Esselunga è una delle poche catene che offre questo servizio, e fra l'altro è quella che lo offre in un numero maggiore di province italiane, quindi certo, questo è sicuramente apprezzabile. Fra le province in cui è erogato questo prezioso servizio c'è anche quella di Verona. Sì. Io abito a Verona, ma ho la residenza nella mia città natale, che è Frosinone. Questo è un dato importante ai fini del motivo per cui... Assolutamente, quindi lei vive a Verona, però la sua residenza l'ha mantenuta a Frosinone, quindi siamo nel Lazio. Esattamente, sì. E dunque, io avendo saputo che questo servizio è attivo nella provincia di Verona, mi sono informato per capire come usufruirne. Certo. E praticamente, per usufruire di questo servizio è necessario inviare un fax con i propri dati anagrafici e allegare un documento d'identità. La clausola, che è stata posta per l'erogazione di questo servizio è che la consegna gratuita viene effettuata solamente all'indirizzo riportato nel documento d'identità. Quindi automaticamente, se lei, ovviamente scherzo con lei e con Pezzi, se lei ordinasse la sua spesa gliela manderebbero a Frosinone. Esattamente, dove fra l'altro il servizio non è attivo, ma certo, è una certo, con un costo oltretutto spaventoso per Esselunga, perché sull'autostrada ci metterebbero ore. Infatti. Allora, io ho contattato il call center dell'Esselunga per chiedere come poter fare, appunto avendo la residenza in un'altra città ma vivendo a Verona, e mi è stato risposto che sarebbe necessario inviare insieme al fax, al documento di identità, un certificato del comune che attesti il fatto che io ho il domicilio a Verona. Sì. Io mi sono informato presso l'URP del comune di Verona e mi è stato detto che il domicilio sostanzialmente non è certificabile. Certo. Né dal comune e neanche dal datore di lavoro, può essere solo autocertificato. Oh, a questo punto allora lei si sarà detto: bene, me lo autocertifico. Me lo autocertifico. L'Esselunga mi ha risposto che io posso autocertificarmelo, però mi è stato detto Non è che poi fra 2, 3, 4 mesi lei ci richiama e ci dice che il suo domicilio è cambiato, e invece il mio caso è proprio che magari fra qualche mese mi trovo a dover cambiare appartamento perché non ho ancora una situazione abitativa stabile, e quindi mi trovo poi nella scelta di aspettare di cambiare appartamento oppure attivarlo adesso e poi A servizio. Comunque dopo. Logica vorrebbe che, come c'è dialogo, c'è stato dialogo tra lei ed Esselunga nelle settimane passate, così potrà continuare ad esserci in futuro. Cioè, se lei cambia casa, è legittimo e reale, comunicherà: guardate che il mio domicilio non è più in via Paolo Rossi ma in via Luigi Bianchi, cambia quello, poco. Quello su cui mi permetto di insistere un attimo è semplicemente il fatto che questa situazione riguarda molte persone, perché sono sempre di più i disabili, soprattutto giovani, che si spostano dalla residenza, dal luogo in cui sono. No, ma è chiarissimo il caso. Infatti noi l'abbiamo preso perché è molto interessante. Intanto perché sicuramente non è una critica ad Esselunga, ma è una critica costruttiva, semmai. Cioè, certo, si riconosce il ruolo di essere stato tra i primi ad aprire il fronte dei servizi per i disabili, si cerca soltanto di capire se si può migliorare il servizio. Sì. Secondariamente, non amando io i casi personali, lo sapete, lo ripeto ogni volta, li prendo in considerazione solo quando rappresentano una moltitudine di persone coinvolte o interessate, anche solo potenzialmente, e siamo in questa fattispecie. Allora, il caso è chiarissimo, quindi sentiamo adesso Pezzi dell'ufficio stampa di Esselunga come legge questa situazione. Prego Pezzi. Buongiorno, buongiorno al signor Luca innanzitutto. Volevo scusarmi, ci dispiace per il disagio che gli abbiamo causato, un disagio che gli abbiamo causato in maniera assolutamente involontaria. Cerco di spiegarvi magari come funziona il nostro servizio, certo, e perché dobbiamo adottare delle procedure che possono sembrare un po' rigide, ma sono standardizzate, perché abbiamo un elevato numero di clienti, un elevato numero di persone disabili che accedono al nostro servizio. Certo. Allora, noi offriamo il servizio di consegna a domicilio gratuita attraverso due modalità per i disabili, sia attraverso il nostro sito internet www.slungacasa.it, come è stato il caso del signor Luca, sia attraverso la consegna a domicilio della spesa precedentemente fatta presso uno dei nostri punti vendita. In entrambi i casi il servizio è completamente gratuito per i disabili. Bene, questo glielo avrei chiesto successivamente, ha fatto benissimo ad evidenziarlo. Esattamente. Il servizio sta riscuotendo moltissimo successo. Immagino, certo. Solo nel 2009 circa un terzo di tutte le nostre consegne a domicilio, che sono tante, parlo di circa 300.000 consegne, sono state realizzate gratuitamente a favore di disabili. Bene. Quindi questo per dire che parliamo di grossi numeri. Ecco, siamo però veniamo al punto Pezzi, cioè effettivamente c'è la possibilità di autocertificare, poi mandarvi questa autocertificazione, quindi voi ne tenete conto, oppure c'è, come dire, un sottile, non dico fastidio, ma disturbo, chiamiamolo come vogliamo, per il fatto che uno può poi cambiare domicilio? Beh, insomma, questo è legittimo, no? Mi pare. Più che legittimo, è un problema che, anzi, ringraziamo il signor Spaziani per averci posto e lo prenderemo sicuramente in considerazione. Quello che io volevo dire è che noi siamo assolutamente disponibili, se il signor Luca, lui dice che giustamente ci ha chiamato e voleva sapere com'era la nostra procedura, probabilmente la ragazza al call center gli ha raccontato quello che è la nostra procedura standardizzata. Certo. Però se lui ci avesse detto: io ho delle difficoltà a andare in comune, il comune non mi rilascia questo documento di domicilio, eccetera eccetera, noi sicuramente gli avremmo detto: senza nessun problema, è sufficiente un'autocertificazione. Comunque, insomma, lei, come sa, una persona diversamente abile ha una vita normale, quindi probabilmente a Spaziani non è costato poi più di tanto andare al comune. L'importante, mi pare, che dai nostri microfoni sia lanciare questo messaggio, Pezzi, se lo condivide. Attenzione che Esselunga prende in considerazione le autocertificazioni per domicilio di persone residenti in altri posti, e quindi basta questo per poi poter avere la spesa appunto a domicilio, come recita giustamente la parola. È così, Pezzi? Assolutamente. Bene, sì. Bene. Proprio di sì. Quindi Spaziani, mi pare che lei sia soddisfatto di questa risposta, sì, anche a nome di tutti i radioascoltatori che si trovano nelle sue condizioni, ovviamente. Certo, io avevo appunto detto all'operatrice del call center che il comune non mi rilasciava certo. Il certificato di domicilio, che avrei potuto autocertificarlo. Benissimo, non e, l'ho mai. L'operatrice ha contattato il suo responsabile, il quale ha detto in via eccezionale per. No, ma abbiamo capito. Lei ha fatto. Possiamo ricevere l'autocertificazione a patto che. Benissimo. Non ti richiami fra 2 o 3 mesi. No, ma è chiaro, Spaziani. Pezzi ha riconosciuto che invece la procedura corretta è quella che lei ha seguito, quindi benvenga questo intervento di Esselunga che ha chiarito molto bene come sono le procedure, quindi io dico grazie a Federica Pezzi dell'ufficio stampa di Esselunga, al nostro radioascoltatore in regia, a Pietro Lacorte in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.